effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto. Assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire. Ciao ciao ciao, ben trovati e ben trovate. Questa è Radio Wombat, nello specifico la trasmissione della stampa rassegnata. Andiamo direttamente a parlare di quello che saranno gli argomenti di oggi. Diverse le questioni che tratteremo, alcune riferite alla cronaca, altre interventi dalle vertenze, dalle lotte, dalle situazioni fiorentine e anche da quello che avviene nella piana fiorentina con il presidio che si è tenuto a Prato Sud Baciacavallo nello specifico. Per chi non ci avesse mai ascoltato, siamo alla 66esima puntata della trasmissione appunto della stampa rassegnata, che è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat con le quali diamo spazio alle vertenze del territorio partendo per lo più da spunti di cronaca. Nella nostra trasmissione un occhio di riguardo particolare è sempre stato dato alla vertenza popolare contro la costruzione dell'inceneritore di Case Passerini, più in generale alle lotte per le alternative e sul ciclo dei rifiuti, e alla vertenza popolare contro la costruzione del nuovo aeroporto di Firenze. Per chi non lo sapesse, ormai siamo qui a fare un po' di preambolo, la nostra trasmissione va in onda in diretta il martedì alle 13.30 e poi gli altri passaggi sono il mercoledì alle 23.59, per non dire mezzanotte, e il giovedì alle ore 8.30 di mattina. Bene, insomma, i saluti e i preamboli li abbiamo fatti e adesso per l'appunto cominciamo a guardare dai giornali un articolo che andremo a leggere quasi per intero, bruta cronaca dalla Nazione del lunedì 13 maggio. L'arma che stordisce, paziente psichiatrico bloccato col taser. I carabinieri fermano un uomo in ospedale a Firenze. Salvini, lo strumento funziona. I carabinieri devono intervenire col taser all'ospedale Santa Maria Annunziata per neutralizzare un paziente psichiatrico costretto da un provvedimento restrittivo a stare in una REMS, residenza per esecuzione delle misure di sicurezza. Ovviamente è un acronimo. E il vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini commenta l'episodio rilanciando l'importanza dell'impiego in determinati casi della pistola elettrica. Virgolettato, il taser funziona, si dimostra uno strumento prezioso per le forze dell'ordine, dice il vice premier leghista. La sperimentazione è quasi finita, da quest'estate sarà nella normale disponibilità delle donne e degli uomini in divisa, dalle parole ai fatti. Poi l'articolo va piano piano a descrivere quello che è successo. Ore 12, dall'ospedale parte una telefonata per il 112. C'è un paziente fuori controllo. I militari del nucleo operativo e radiomobile di Firenze arrivano e cercano di calmare a parole l'uomo, un 42enne. Niente, il soggetto è in stato di forte agitazione. Quando vede i militari diventa aggressivo, pericoloso per sé e per gli altri. I carabinieri, a garanzia della sicurezza loro, del paziente e degli operatori sanitari, colpiscono l'uomo con il dardo che, toccata la persona, rilascia una scarica elettrica blocca muscoli. L'utilizzo del taser prevede che gli agenti non debbano colpire la testa, il cuore, i genitali. Neutralizzato il paziente, i sanitari possono sedarlo. L'uomo ha precedenti di polizia per lesioni. Per lui il GIP aveva disposto già nel 2018 la degenza coatta per 6 mesi in una struttura ospedaliera che fosse destinata a una REMS, le nuove strutture che devono sostituire gli ospedali psichiatrici giudiziari aboliti per legge. Le REMS garantiscono percorsi terapeutici e riabilitativi per persone cui è applicata una misura alternativa agli OPG, ospedali psichiatrici giudiziari per l'appunto. spiega Lucilla Di Renzo, direttore sanitario di Santa Maria Annunziata, che si tratta di paziente molto difficile e in lista di attesa per entrare in REMS. Quando è in fase acuta viene ricoverato nel reparto psichiatrico, l'ultima volta sabato. Oggi gli operatori sanitari erano in grande difficoltà a somministrargli le terapie, per quanto lui era agitato, aggressivo, incontenibile. Dava in escandescenze e un carabiniere è stato aggredito. I suoi colleghi hanno dovuto chiamare rinforzi. Era una situazione di vera emergenza. Nessuno riusciva a contenerlo e in reparto ci sono altri pazienti da tutelare. L'intervento con il taser? Non entriamo assolutamente nel merito del tipo di intervento eseguito dall'arma dei carabinieri. La vicenda dimostra la difficoltà di gestire pazienti come questi. I medici e gli infermieri hanno chiamato il 112 proprio perché non riuscivano a risolvere la situazione, dato il forte stato di agitazione del paziente. Precisa infatti il comando provinciale dei carabinieri con una nota che si è trattato, virgolettato, del terzo intervento che i carabinieri hanno dovuto effettuare negli ultimi 2 giorni nei confronti dello stesso uomo al Santa Maria Annunziata. Questo era direttamente l'articolo della Nazione. Per il commento a questa certamente gravissima notizia andiamo direttamente all'intervento che abbiamo registrato. E allora, per i nostri amici, amiche, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat, ci rimettiamo ancora una volta in collegamento con il collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud di Pisa, collettivo al quale strappiamo proprio un po' di attenzione visti i giorni di forte impegno militante e di attivismo per l'organizzazione e per la partecipazione all'annuale Canapisa, ma che dobbiamo per forza sentirli e interpellarli perché ancora una volta a Firenze si parla di taser o taser come dicono gli inglesi. Purtroppo la prima città in Italia, lo dobbiamo ricordare per forza, è stata Firenze, era settembre del 2018 quando un 24enne di origine turca, di cui poi nei giorni successivi al fatto si è appreso che aveva avuto anche degli episodi di ricovero e trattamento psichiatrico e obbligatorio, e era stato appunto primo intervento in Italia vittima del taser. Ci risiamo un'altra volta, è la seconda volta che il taser viene usato a Firenze, fa ancora notizia, per certi aspetti per fortuna, anche se l'ha fatta nei termini che abbiamo visto nell'articolo della Nazione, e cioè senza bisogno di ribadirlo ulteriormente, in qualche modo festeggiando l'utilità dello strumento, e invece dal nostro punto di vista è necessario metterlo ancora in croce e alla berlina, proprio perché, come dicevamo quasi un anno fa, questo strumento non va che a mortificare e a colpire ulteriormente soggetti, soggettività fragili e deboli che già vengono da un punto di vista repressivo del controllo sociale e delle pratiche coercitive già sono fortemente vittime. Lo sono a tutti gli effetti, questa volta lo ripetiamo ancora, è ancora un utente di psichiatria e probabilmente il fatto è ancora più grave perché è avvenuto per la nel tentativo insomma di trattenere un soggetto che non voleva o accettava totalmente o pienamente le cure che gli erano più che proposte, imposte, e lo facevano all'interno dei locali di una residenza e di una struttura comunque sanitaria. Quindi quello che è successo è di una particolare gravità e lo chiediamo ovviamente ai compagni e alle compagne del collettivo Antonin Artaud di Pisa, che è in collegamento con noi dalla voce di Alberto. Alberto, che ne pensi di quello che è successo? A te la parola per un commento ampio e competente su tutta questa vicenda. Buonasera a tutti, grazie ragazzi di averci chiamato, competente spero di essere all'altezza. Noi come collettivo, forse lo sapete già, lavoriamo sull'antipsichiatria, vale a dire sul contrasto agli abusi della psichiatria e la controinformazione sul fare a meno della psichiatria da circa 13 anni ormai a Pisa, e quindi è un osservatorio d'eccezione il nostro, ci permette anche di vedere cosa sta succedendo in campo psichiatrico dei disturbi cosiddetti mentali nella nostra città e anche fuori dalla nostra città, perché poi le telefonate che riceviamo arrivano un po' da tutta Italia al nostro telefono di ascolto. Chiaramente questa del taser ci preoccupa molto, perché quest'arma è stata introdotta come prova in alcune città, una dozzina di città in Italia, e Salvini ne parla spesso come un deterrente ottimo, come un'arma non letale, anche se poi non letale non è. Parlavi prima di un dispositivo mortificante. La Reuters, in una sua ricerca, Shock Tactics, riporta che su 1.500 decessi, sono avvenuti 1.500 decessi negli USA da quando è entrata in uso, e 275, fra l'altro, di questi decessi riguardavano persone affette da disturbi psichiatrici e malattie mentali. Quindi è partita, la maggior parte di questi è partita da una chiamata dei medici, un soccorso dei medici. Questa è una cosa che preoccupa molto, perché vuol dire che è un'arma che viene utilizzata spesso su persone che già magari sono sotto un obbligo di cura con degli psicofarmaci, e gli psicofarmaci alterano molti organismi interni nostri, compreso anche il cuore. Quindi persone che vengono colpite da due dardi elettrici con una scarica elettrica di 50.000 volts, spesso la morte è una morte che anche avviene per arresto cardiaco. Alcune di queste morti avvengono anche per la caduta che avviene dopo essere stati colpiti dai dardi elettrici. Quindi la caduta senza sensi può provocare un colpo alla testa che può risultare mortale alle volte. Questi sono i tanti casi dove da quando è stata introdotta negli Stati Uniti, dove già esiste da parecchio tempo l'utilizzo, hanno cominciato a fare delle analisi sulle conseguenze. Comunque il taser è stato introdotto in 107 paesi, molti anche paesi europei chiaramente, e l'Italia si è adeguata a questo. Poi fra l'altro il taser è una parola incredibile, perché se si va a vedere l'acronimo parte da un libro che fu scritto proprio nel periodo coloniale, nei primi del Novecento, Thomas Rifle, dal nome dell'inventore di questo libricino che veniva distribuito nelle scuole degli elementari primi del Novecento, in cui l'eroe Thomas Rifle usava questo fucile elettrico per uccidere le bestie feroci in Africa e gli africani, i negri, che erano parificati alle bestie feroci, no? Quindi mostrificati, e quindi venivano uccisi con questo fucile elettrico. E la parola è stata ripresa proprio dall'acronimo delle iniziali dell'autore del libro. In Italia adesso la Taser è passata sotto la Axon, è stata un'azienda che ha cambiato il nome praticamente. La Taser adesso si chiama Axon ed è diventata un'azienda che produce tecnologie di sicurezza, tecnologie di controllo, quindi si è allargata moltissimo. In partita i suoi autori, quelli che hanno inventato il Taser, si vantano di aver iniziato in un garage. Adesso è diventata un'azienda con un fatturato che poi posso andare a vedere esattamente, vi dico quant'è, ma si tratta di milioni di dollari, perché lo sta vendendo in tutto il mondo. È un'arma definita non letale, in realtà poi hanno dovuto modificare anche questa visione, dire arma non proprio letale, cioè non necessariamente non letale, insomma è cambiata in meno letale, esattamente, la dicitura è cambiata in quello che diffonde l'azienda, da non letale in meno letale. Questo perché poi ci sono state diverse cause fatte da quelli che sono morti in America verso l'azienda, quindi anche loro hanno dovuto rivedere un po' le cose. Comunque quello che succede in Italia è che attualmente è in dotazione, come sapete, appunto a molte forze di sicurezza in alcune città d'Italia, e l'utilizzo che è stato fatto appunto per ora è contro cosiddetti malati mentali. L'ultimo che avete citato, quello di Firenze in particolare, ci preoccupa perché è avvenuto in un reparto psichiatrico dove già le cure psichiatriche che noi conosciamo bene hanno i legacci. A Firenze lo possiamo denunciare tranquillamente, si usano i legacci ancora nel reparto psichiatrico di Firenze, quindi hanno già strumenti oltre al diciamo ai legacci chimici, no? Le pastiglie eccetera, e quindi aver chiamato i carabinieri in un reparto che già di per sé è militarizzato, non è militarizzato, però diciamo hanno già gli strumenti per calmare le cosiddette persone agitate, far entrare i carabinieri a sparare un dardo elettrico, insomma ci sembra un utilizzo un po' fuori luogo. Comunque questo è il rischio a cui andiamo incontro, perché purtroppo nella nostra società ormai stiamo legittimando anche ogni tipo di tortura. La stessa psichiatria, questo lo voglio denunciare proprio come collettivo antipsichiatrico, l'estensione di disturbi mentali a categorie che ormai vanno dai bambini nelle scuole, che appena sono non normali o non normati vengono considerati malati mentali o comunque disturbati, eccetera, senza andare a vedere le cause del malessere delle persone, del bambino, che può essere della famiglia, da conflitti che ci possono essere, eccetera, ma riducendo, come fa la psichiatria, che è molto riduzionista, alla malattia nella mente della persona, nel cervello della persona, ecco, per noi questo è già un riduzionismo non scientifico e che sta causando disastri nella nostra società. Lo possiamo rilevare dal nostro osservatorio, appunto, facendo questo volontariato da anni, perché vediamo sempre di più persone sottoposte a obblighi di cura con psicofarmaci che sono simili alle droghe pesanti. E da qui posso allacciarmi al discorso anche di domani, di questa importante manifestazione che facciamo a Pisa da 19 anni, che fa l'Osservatorio Antiproibizionista di Pisa, facendo, che diciamo culmina un'annata di iniziative sul tema delle droghe, e culmina con questa street parade che è stata vietata per la prima volta dal nuovo sindaco leghista di Pisa, che ne aveva fatto una bandiera di poterne di cercare di fermare questa street parade che ogni anno raggruppa migliaia di persone a Pisa che festosamente, gioiosamente, illegalmente girano per la città dietro ai camion ballando con una musica anche molto bella, perché arrivano sound un po' da tutta Italia, quindi è anche un festival underground musicale molto importante. E quest'anno ce lo vogliono impedire, infatti sarà un presidio fisso che però assume anche un valore molto politico sul diritto a manifestare, perché praticamente stanno togliendo questo a Pisa, il diritto a manifestare. Quindi ce lo aspettiamo molto affollato, nonostante forse il maltempo, ma speriamo che la gente comunque venga a difendere questo diritto. Dico questo perché, per il discorso che facevo prima, il discorso delle droghe, anche delle droghe legali, quindi gli psicofarmaci che vengono prescritti forzosamente, coattivamente. La persona, a volte che vengono da noi, ci dicono: io sento che questo farmaco mi sta dando molto fastidio, non riesco più a leggere, perdo la memoria, perdo la capacità di concentrazione. E gli psichiatri spesso non ascoltano, continuano a dare quel farmaco, anzi aggiungono altri farmaci per togliere quell'effetto collaterale, e quindi le persone spesso sono ridotte malissimo. E è strana questa contraddizione che c'è fra il medico in camice che può prescrivere droghe così pesanti, mentre le persone che si autoprescrivono una pianta come la canapa, che ormai insomma in molti paesi è stata decriminalizzata, in Italia ancora chi lo assume viene considerato un malato, un criminale. Insomma, infatti la manifestazione è proprio né malati né criminali, gli assuntori di sostanze non vanno classificati come tali. Chiaramente sia il collettivo antipsichiatrico che quello antiproibizionista, come dice la parola, sono antiproibizionisti, quindi noi non siamo contro l'uso degli psicofarmaci, ma siamo per un uso consapevole sia degli psicofarmaci che delle sostanze illegali. Quindi ci vuole un consenso informato per coloro che sono costretti, che non dovrebbero essere costretti, che dovrebbero essere informati sull'uso del farmaco, e la possibilità di sospenderlo quando uno sente che gli nuoce alla salute. E quindi siamo contro l'obbligo di cura e il trattamento sanitario obbligatorio. La manifestazione di domani sottolinea sempre anche questi due aspetti, oltre alla non punizione del consumo per i consumatori di sostanze illegali e alla possibilità di autoprodursi una pianta che cresce sulla terra da molto prima dell'uomo e che non si può criminalizzare. E pensiamo che nel mondo ci sono milioni di persone in galera per possesso di canapa, e questo è criminale per noi. Poi abbiamo, la dedichiamo spesso, li citiamo spesso durante il corteo e la street, i morti in carcere che sono finiti dentro per l'utilizzo di sostanze illegali. È chiaro, più famoso Cucchi, Mabianzino, Ales, Frapporti, e ne abbiamo tantissimi. Poi tanti sono senza nome perché sono migranti, e quindi quelli non sono neanche, non hanno neanche il nome sul giornale. Però quanti ne muoiono in carcere per una legge sulle droghe che tiene in carcere comunque più del 30% dei detenuti, e siamo già in sovraffollamento perché siamo a 65.000, mi pare, su 50.000 di capienza. No, 55.000 su 40.000, comunque 15.000 in più della capienza che dovrebbe avere. Quindi c'è anche questo aspetto qua carcerario della legge sulle droghe su cui noi vogliamo combattere, insomma. Quindi io invito tutti domani a venire, invito la manifestazione alle 16 in Piazza della Stazione a Pisa, quindi per manifestare, per il diritto a manifestare, perché continua ad esserci, e per la fine della punizione dei consumatori. E poi a tenere anche alta l'attenzione su questi nuovi strumenti che letali sono, lo abbiamo visto, esistono, la casistica di mortalità elevatissima, e che invece viene sempre più legittimato. Ci sono già degli opuscoli, poi vi invito anche a venire il 1° giugno, faremo presidio sotto l'ospedale Santa Chiara alle 4 del pomeriggio, proprio per denunciare anche l'utilizzo dell'elettroshock, che è un'altra di quelle cose, di quegli strumenti della psichiatria che si pensano esauriti nel tempo, non più utilizzati, invece ritornati in auge. A Pisa è una di quelle cliniche dove si pratica l'elettroshock, spesso senza che le persone vengano informate di ciò che gli verrà fatto, perché sono già ridotti a larve umane con gli psicofarmaci. In quell'occasione distribuiremo anche opuscoli sull'utilizzo, sul taser, molto dettagliati, anche su come curarsi dalle ferite da taser. L'opuscolo che distribuiremo è molto dettagliato, anche proprio su ciò che può causare questi dardi elettrici che penetrano nella pelle e le conseguenze che possono dare anche successive. Quindi sono cose che diffonderemo anche in rete, sicuramente, perché è bene sapere a che cosa si va incontro. Chiunque non è normale potrebbe essere colpito da questi dardi elettrici. Grazie per l'attenzione che avete avuto, e spero di vedervi tutti domani al corteo del Canapisa. Grazie a te e a tutti voi, a tutte voi, Alberto e il collettivo Antonin Artaud di Pisa. E facciamo finta di aver ricevuto in tempo i vostri inviti alla partecipazione al Canapisa. E prima di passare a un altro argomento che speriamo risulti ugualmente interessante per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, facciamo una pausa con un po' di rap cileno con El Portavoz. Comienza a posicionarte, luego adentrarte en el fuego, y no te apartes con descartes, juegos. Vamos a aclararte, el arte no es un juego. ¿A quién vas a cantarle? ¿A los ricos o al pueblo? Decídete con una postura dura, inclínate, aclara el panorama, sal de la rama, defínete. ¿Cuál es tu clase? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu contenido y objetivo? ¿O eres solo ruido y paja? Artista que no critica el sistema, es un conformista, se entrega al capitalismo mismo, le hace la pega. La neutralidad no existe, si persiste una realidad desigual igual que no se viste. Si el sistema contra el sistema, asiste más donde se resiste y se entrena sin frenar. Quema el esquema, el poema enseña el dilema, pero problema y cadena se frena remando bajo la escena. Esto es rap revolucionario, poblacional, popular contra el capital y el estado. Seamos sinceros, por favor, antes de ser rapero, primero soy pueblo obrero y poblador. Dictadura proletaria. eres chicha ni limoná. Te lo pasáis manoseando tu dignidad, nada más. Lo dijo Víctor Jara en los 70, hoy yo lo repito, empápate el potito y despierta. Enfréntate a la realidad de una vez. El arte está con el pueblo o con el burgués. Es simple, oye, no te engañes. El arte no está en el aire, viene de seres sociales reales. El arte está con el secundario o con el lucro, con el proletario, con el puto empresario pulpo, con el trabajador o con el gobierno, con el poblador sin techo o con el patrón cabrón y cerdo. Esto es para el típico artista apolítico que critica el lo político y no a lo político. Se juran indiferente, y esa postura solo ayuda a que se escurra fácilmente el orden existente. Te lo aclaro, acá me paro y declaro que estoy más claro que el cloro cuando disparo párrafos de arte. Desde más caro y encaro el descaro del avaro, como Lautaro yo me preparo para revelarte. Yao, música de calle, aquí la moro va en flama. Bombo, caja, flow, zarpao, sin falla. Un nacional está en rima de batalla, hip hop crudo, el humo de la barricada. Música de calle, aquí la moro va en flama. Bombo, caja, flow, zarpao, sin falla. Poblacional está en rima de batalla, hip hop crudo, bajo dictadura proletaria. No soy un artista. El pueblo y el tiempo dirá si yo soy artista. Yo en este momento soy un trabajador y un trabajador que está ubicado con conciencia muy definida como parte de la clase trabajadora que lucha por construir una vida mejor. Ed eccoci rientrati in voce, per chi si fosse collegato solo adesso, questo è Radio Wombat, lo spazio della stampa rassegnata, una delle nostre trasmissioni informative che va in onda in diretta il martedì alle 13.30, il mercoledì alle 23.59 e il giovedì alle 8.30. Ovviamente per chi è più appassionato o semplicemente curioso, tutte le nostre trasmissioni le potete anche scaricare nella sezione podcast del sito, alla quale evidentemente è molto semplice accedere, basta digitare Radio Wombat Firenze in ogni motore di ricerca. Fino ad ora abbiamo parlato di Taser, che è stato purtroppo usato per la seconda volta a Firenze, ancora una volta con un utente psichiatrico, e adesso cambiamo radicalmente argomento. Oggi voliamo nel centro di Firenze, in una strada certamente importante, se non addirittura nevralgica e rappresentativa di molte delle problematiche che vive la nostra città, il nostro centro storico, ma sicuramente tutta l'area metropolitana, che è Via Palazzuolo. In quel di Via di Palazzuolo è nato e si sta per l'appunto inaugurando in questi giorni, in queste settimane, lo sportello Casa. Crediamo non sia assolutamente un caso che nasca in via Palazzuolo, luogo della città che, come dicevamo, è rappresentativo di una serie di problemi, non ultimo quello della gentrificazione, cioè questo il processo per cui innalzando e aumentando i valori immobiliari gli abitanti storici delle città vengono in qualche modo espulsi per ragioni economiche verso le aree più periferiche e a minore costo. Rappresentativa via Palazzuolo anche dall'altra parte della questione migranti e diritti migratori, perché per anni insomma non è ancora finita, al centro delle polemiche sul degrado e sulla presenza degli stranieri in città. Ma di tutto questo non c'è voce migliore che non uno o una dei compagni e delle compagne che in questo momento stanno per l'appunto inaugurando lo sportello Casa. Quindi la parola a Duccio per raccontarci il perché, il per come è nato lì e quali sono gli obiettivi che lo sportello si propone e quali sono le sue particolarità. A te la parola, Duccio. Ciao a tutte e tutti. Intanto grazie per lo spazio che ci avete dato e dell'intervista. Dunque, mercoledì 15 maggio abbiamo inaugurato lo sportello solidale, che si chiama Sportello Solidale Resistenza Casa, un luogo dove chi subisce il problema abitativo sulla propria pelle può avere un supporto e una consulenza. Oggi riteniamo più che mai indispensabile, visti i chiari di luna che stiamo vivendo con questo governo e con il suo decreto sicurezza iperrepressivo, che in questo senso ci va molto pesante, e quindi c'è tutta una legittimazione dello sgombero e degli sgomberi e quant'altro. Lo sportello è pensato principalmente per il problema degli sfratti, ma anche per le problematiche relative alla residenza per i migranti. Sappiamo anche che, insomma, la nuova legge regionale pone diversi problemi su questa cosa, cioè favorisce di fatto chi è residente da più di 5 anni, quindi di fatto discriminando i migranti che già di per sé hanno anche difficoltà a ottenere la residenza, e insomma questo facilita, è un po' una sorta di prima gli italiani versione toscana. E poi c'è anche la problematica, insomma, la questione drammatica dei richiedenti asilo, cioè quando il richiedente asilo ottiene appunto l'asilo viene di fatto ma buttato fuori dai CAS e si trova appunto senza casa e senza lavoro. Rispetto al discorso appunto del luogo di Via Palazzuolo, il discorso è esattamente quello, il discorso della gentrificazione, cioè che oggi è il mercato ad essere il padrone totale degli spazi urbani attraverso il turismo e attraverso il consumo. E di fatto chi amministra la città si muove solo in termini di ordine pubblico, appunto come accennavi al discorso del decoro, e tutto ciò provoca l'espulsione, è una dinamica che provoca di fatto l'espulsione dei poveri dal centro prima e da Firenze poi, dato che quella che prima era periferia popolare con alloggi ERP, prima ancora c'erano anche gli affitti assieme agli alloggi ERP, gli affitti calmierati, come penso a zone come Piagge, Novoli, Isolotto, che erano popolari e negli ultimi anni si stanno tramutando sempre più in quartieri residenziali, con la conseguenza dell'aumento degli affitti. E questa espulsione dei poveri lo vediamo bene, visto che alcuni di noi militano nel campo della lotta per il diritto all'abitare anche nella Piana Fiorentina, soprattutto a Campi Bisenzio, dove stanno via via esplodendo queste problematiche sociali. Questo, insomma, dunque il motivo per il quale abbiamo deciso di chiedere alla Biblioteca Riccardo Torregiani e all'Associazione Anelli Mancanti di ospitarci per lo sportello, proprio perché le contraddizioni relative al problema abitativo nascono proprio qui nel centro della città, e queste due realtà, anche differenti tra loro, però sono due realtà che tentano di resistere a questa dinamica della gentrificazione e danno anche un esempio di alternativa al modello che ci viene propinato. Oltre alla resistenza, però, abbiamo anche intenzione di fare proprio un'inchiesta via via sulle problematiche e fare anche delle proposte politiche vere e proprie. La composizione dello sportello è fatta da alcuni militanti di Rifondazione e alcuni residenti del Melograno, che è uno degli autorecuperi che sono partiti a Firenze, il Melograno in via Aretina. Lo sportello è aperto a chiunque abbia voglia di dedicarsi a questa lotta. Infatti abbiamo proprio ora prodotto un manualetto, diciamo, di teoria e prassi, per dove c'è un'infarinatura, insomma, sul tema, di teoria e prassi della lotta per il diritto all'abitare e insomma per chi è al primo approccio, insomma, e vuole avvicinarsi a questo mondo. Inoltre non vogliamo essere l'ennesima sigla fine a se stessa, insomma, ma cercare di fare rete con tutte quelle realtà che si muovono in questo senso, sindacati di base e non, i partiti di sinistra che si sono sempre battuti in questo senso, anche le istituzioni, i consiglieri comunali che si sono sempre battuti su questo tema, e presenziando anche agli sfratti e a volte essere anche importanti in questo senso, e poi ovviamente le realtà di movimento. Concludo dicendo quando e dove precisamente, appunto, faremo la consulenza e il supporto. Il primo e il terzo mercoledì del mese in via Palazzuolo 95, in collaborazione con la biblioteca Riccardo Torregiani. Il secondo e quarto venerdì del mese in collaborazione con l'associazione Anelli Mancanti, sempre in via Palazzuolo 8. Ed eccoci allora di nuovo, tornare in quel di Prato Sud, nella zona di Cafaggio, Le Fontanelle, Santa Maria, dove per l'appunto si tiene il presidio contro l'inceneritore, contro il biodigestore, contro i progetti dell'azienda pubblico-privata Gida, di cui nella scorsa puntata abbiamo abbondantemente parlato per lanciare il presidio per l'appunto di oggi. Ed oggi il comitato e i vari comitati della Piana che hanno risposto alla chiamata del comitato di Prato sono per l'appunto lì, sfidando non solo le avversità meteorologiche, ma sono lì a sfidare soprattutto i poteri forti del territorio, a partire dalla Confindustria pratese, a partire dal Partito Democratico e comunque tutto il complesso di forze politiche, al quale hanno già dato una buona risposta con la presenza partecipatissima e vivace alla serata al Teatro Politeama di giovedì sera. Ma ancora una volta lo facciamo dalla viva voce dei partecipanti al presidio, a cui diamo la parola per chiedergli e per sapere come sta andando e alcune riflessioni libere e sparse sulla giornata di oggi, sul significato del presidio e eventualmente sul proseguo delle prossime iniziative. A voi la parola. E buonasera amici di Radio Wombat, sono Pari del comitato Difendiamo la Nostra Salute Prato Sud. Abbiamo appena finito di sistemare, di mettere a posto il nostro presidio contro l'inceneritore Gida di Baciocavallo. Siamo un po' bagnati ma soddisfattissimi, perché abbiamo avuto tante persone che sono venute a trovarci, con cui abbiamo parlato, abbiamo cercato di spiegare, di dire quello che è stato fatto e quello che dovrà essere fatto da questa amministrazione comunale, vale a dire il progetto di realizzare un nuovo inceneritore con tanto di biodigestore proprio in mezzo alle case. Ci ha fatto piacere vedere tantissime persone, ci ha fatto piacere anche vedere la partecipazione dei politici. Domenica prossima ci saranno le elezioni comunali qua a Prato e giustamente noi, essendo un comitato apolitico, abbiamo invitato un po' tutti i candidati, molti sono venuti e qualcuno, specialmente quelli dell'amministrazione in carica adesso in area PD, non sono venuti proprio per il motivo che la proposta è loro. Comunque va bene così, siamo rimasti soddisfatti, abbiamo parlato tanto, ci siamo un po' bagnati perché il tempo purtroppo non è stato dei migliori, però non ha piovuto tutto il tempo. Vorremmo ringraziare chiunque, tutte le persone che sono intervenute, le mamme, no inceneritore, chi ci ha dato una mano, chi ce ne ha date due ovviamente, quello che siamo riusciti a fare per adesso. Sì, perché non è intenzione nostra di chiudere qua con questo presidio. Seguiranno altre iniziative che ci permetteranno di far conoscere questa problematica della parte sud di Prato, di far conoscere la situazione di un inceneritore che è 40 anni che esiste, che sta andando avanti in deroga ormai da più di 5-6 anni, non ricordo con esattezza la data, e far conoscere il progetto nuovo che è stato presentato, che secondo noi, oltre ad essere sicuramente molto impattante, perché vedrà costruire un bio digestore, cosa che sinceramente a noi non va molto bene, a 50 metri dalle case, dalle scuole, campi sportivi, chiese, cioè in mezzo a tre frazioni molto molto densamente abitate, come la situazione di Prato Sud, nello specifico Fontanelle, Paperino e anche San Giorgio a Colonica vicino e Cafaggio. E questo è il nostro messaggio che cercheremo di portare avanti insieme, uniti. Più persone ci sono, più persone ci vogliono dare una mano, perché anche ieri tanti hanno lasciato il proprio contatto, il loro numero di telefono, dicendosi disponibili ad aiutarci. Bene, quello che vogliamo fare noi, cioè informare, dare una mano e ricevere anche un aiuto da queste persone. E vi richiamo a questo punto sulla nostra pagina Facebook, ovviamente Comitato Difendiamo la Nostra Salute Prato Sud, dove trovate tutti i contatti per poterci ovviamente contattare e avere qualche informazione più. E prossimamente faremo sicuramente altre iniziative, appena il tempo sarà un po' più clemente, finché continuerà a piovere sarà veramente difficile, però l'intenzione nostra è di essere sempre più presenti sul territorio, coinvolgere, informare, che è la cosa più importante in questo momento, tutte le persone che vivono qua, che non sanno che a Prato Sud esiste un inceneritore che brucia 30.000 tonnellate di fanghi l'anno, e queste 30.000 tonnellate sono veramente tante, sono troppe per un inceneritore veramente in mezzo alle case, inceneritore che non è censito, tra l'altro, perché come abbiamo fatto vedere ieri a tutte le persone, abbiamo appena fatto vedere a tutte le persone che sono intervenute, davanti all'impianto di Gida c'è scritto grosso come una casa depuratore. Sì, c'è il depuratore, ma accanto al depuratore c'è anche un inceneritore, e quasi tutte le persone che sono intervenute oggi non sapevano dell'inceneritore e della portata di questo inceneritore. L'amministrazione comunale ne vuole costruire un altro più piccolo, va bene, più piccolo, ma sempre in mezzo alle case, alle scuole, e questa cosa a noi non ci va bene. Quindi chi è interessato ci contatti pure, restate anche collegati su Radio Wombat, che sicuramente ci state dando una mano, e niente, noi continueremo così, continuiamo a protestare, a portare avanti la nostra battaglia. Grazie di cuore veramente a voi che ci date la possibilità di esprimerci sulla radio, e grazie ancora a tutte le persone che sono intervenute oggi. Noi ci siamo e continueremo ad esserci. Grazie ancora e avanti così. Ciao a tutti. Ciao a tutti, sono Francesco del Comitato Difendiamo la Nostra Salute di Prato Sud. La prima considerazione che mi viene in mente qui dai cancelli di Gida del inceneritore è soddisfazione per un risveglio civico a cui stiamo assistendo. Sono centinaia le persone che si stanno avvicinando al nostro presidio per poter informarsi e per poter dimostrare con la loro presenza di una situazione che è ormai insostenibile e che deve essere presa a considerazione dopo 40 anni di silenzio e dopo un progetto che viene presentato in maniera impudente e con arroganza per proporre di nuovo un inceneritore e un biodigestore sempre in mezzo a case e scuole, in una situazione urbanistica che legittima la nostra rabbia e che non fa che richiedere l'attenzione di tutti coloro che devono poi decidere nelle sedi opportune. Abbiamo reso la possibilità a tutti coloro che per le prossime elezioni saranno poi chiamati ad essere eletti per assurgere a posizioni di gestione delle faccende, delle problematiche della nostra zona, quindi abbiamo dato la possibilità a tutti i partiti di poter venire ad esporre il loro programma. Quello che però vedo che non rimane presente a tutti loro è questo, cioè al di là delle preoccupazioni del condividere quelle che sono delle faccende ovvie che non possono che essere chiaramente condivise, quello che noi chiediamo è poi alla fine una semplice azione da poter fare, cioè quella di fermare intanto il progetto per poterne discutere nuovamente, per poter nuovamente chiedere la partecipazione e soprattutto per poter riflettere in maniera a quanto pare più tranquilla, visto che fino adesso non è stato possibile riflettere su questa situazione. Dico più tranquilla nel senso che, nonostante la presenza palese di tutto ciò che è davanti a tutti, probabilmente si necessita di nuovo tempo e di nuova partecipazione, come dicevo prima, per poter capire bene cose che sembrerebbero ovvie ma che in realtà non lo sono, cioè una situazione urbanistica realmente paradossale. Devo dire che l'assenza totale è comunque il dialogo con parte importante di questa società, cioè Confindustria che naturalmente deve gestire in maniera il più efficace possibile il futuro del distretto industriale, ma questo lo sta facendo assolutamente senza confrontarsi con nessuno, anche per condividere ipotesi intelligenti che ovviamente non danneggino il lavoro, che è uno degli elementi fondamentali della vita dell'uomo, ma lo è lo stesso e in forma prioritaria la salute. Per cui, per trovare un equilibrio fra questi elementi, aspettiamo Confindustria che si degni di poter parlare con noi, poter condividere con noi e con tutti i politici e gli amministratori che parlano di questa situazione, non più per parlare ma per agire e trovare soluzioni intelligenti a questa faccenda. Partire dalla questione urbanistica permette di avere un'argomentazione che è immediatamente comunicabile a tutti coloro che in questo momento si stanno presentando qui al presidio. Basta semplicemente visualizzare la zona su Google Maps per rendersi conto di quanto questa zona abbia dovuto subire per 40 anni e di quanto viene ancora pensato di dover far subire a questa zona. Per cui, nel ribadire che dobbiamo partire innanzitutto dal fermare il progetto per poter nuovamente riproporre, e sembra quasi assurdo doverlo dire, una situazione da rianalizzare nuovamente, ringrazio tutti i partecipanti che sono qui, richiamando a prossime iniziative, in quanto questo risveglio che da decenni aspettava di poter rendersi attivo porta la voglia di dover nuovamente riproporre iniziative. E di tutto questo ringrazio quindi, come stavo dicendo, i cittadini che si sono presentati adesso al presidio e tutti coloro che ci hanno aiutato, partendo dal Comitato delle Mamme Non Inceneritore, dal presidio No Aeroporto Non Inceneritori, alla collaborazione con Medicina Democratica e ai comitati di zona, in particolare il Comitato Ambientale di Casale e il Comitato in Mezzo ad un'Autostrada, che hanno supportato tutto ciò. Grazie di nuovo e teniamoci veramente in contatto fra tutti per poter fare nuove iniziative che portino avanti questo risveglio civico. Grazie di nuovo anche a voi della radio. E allora ciao e grazie a voi, assolutamente a voi, a Francesco, a Paride, che sono state le voci di questa narrazione post presidio, ma chiaramente a tutto il complesso di soggettività che in Prato Sud sta dando vita a quello che è stato definito un risveglio civico, certamente un elemento molto importante che deve sostenere le lotte e la presa di coscienza per il futuro del nostro pianeta e dei nostri territori. E ringraziandoli ancora e con il piacere di aver dato mano per quello che è possibile anche con i nostri microfoni, adesso i nostri microfoni li riapriamo ancora una volta per quello che succede a Firenze con la presenza di Salvini. E allora colleghiamoci con Luca di Iniziativa Antagonista Metropolitana per farci raccontare dalla sua viva voce e dalla sua esperienza sul campo la bellissima giornata di domenica sera, quando Firenze, la Firenze dal basso, la Firenze che si oppone e che resiste, ha accolto Salvini in una maniera davvero determinata. Tanta grinta, come probabilmente a Firenze dobbiamo dircelo, non si vedeva da tempo. E insomma, credo che lunedì, la settimana per molti e per molte compagni e compagne di Firenze, sia cominciata con il sorriso sulle labbra. Una giornata faticosa ma anche entusiasmante. Sentiamo Luca e il suo racconto. A te la parola. Sì, ciao a tutti, un'ottima sintesi l'hai già fatta tu, tanta grinta, tanta gente nonostante le tante cariche e soprattutto tanti sorrisi nonostante le tante cariche. Quella di ieri credo sia, senza fare facili retoriche, una giornata che possiamo definire storica, memorabile, importante per questa città, ma probabilmente anche più in generale per questo paese, in questa fase politica che stiamo attraversando. Ecco, diciamo che la chiamata alla contestazione ha prodotto degli effetti ben oltre le più rosee aspettative. Alle 8:30 siamo entrati in una piazza della Repubblica che era già affollata e si è subito capito che era una piazza che voleva farsi sentire, che non voleva stare nel proprio recinto, che voleva portare una voce forte, dei messaggi chiari da contrapporre a quei messaggi indecenti che invece si preparavano a essere enunciati dal palco di Piazza Strozzi. Ecco, tutti abbiamo visto le due fotografie, i paragoni fra le due fotografie, paragoni che non reggono. Da una parte poco più di 100 leghisti venuti a fare la clacca al ministro dell'Interno per una sua campagna elettorale, come abbiamo detto, che è tutta costruita sui cadaveri dei migranti che stanno sui fondali del Mar Mediterraneo, e dall'altra la piazza di una città antirazzista, di una città antifascista, ma soprattutto dei giovani di questa città che alla parola cambiamento non associano minimamente questo governo, ma pensano a ben altro, a tutta un'altra domanda di cambiamento che ad oggi continua a rimanere inevasa. Ecco, abbiamo la cronaca, penso che la conosciamo tutti, abbiamo visto tutti il confronto che c'è stato sull'imbocco di via Strozzi, le ripetute cariche, 8 se ne sono contate alla fine della giornata, abbiamo visto tutti la determinazione, il coraggio e appunto anche i sorrisi con cui la piazza ha reagito e ha resistito a queste cariche. Crediamo sia una piazza importante per tanti punti di vista, non solo probabilmente una delle prime reazioni di massa, perché possiamo usare questo termine quando pensiamo a una piazza della Repubblica piena, numeri che in questa città non si vedevano da molto tempo, ma anche per altre ragioni. Abbiamo assistito in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, tutte determinate dal clima preelettorale, a un tentativo tra il ridicolo e lo schifoso del Partito Democratico di provare a cavalcare questa prima attivazione, mobilitazione, diciamo reazione alla barbarie leghista, provando a reintestarsi a sé un antirazzismo e un antifascismo che non gli appartengono, che non possono più appartenergli dopo i decreti Minniti, dopo tutto quello che è stato fatto negli anni di governo precedenti a quello attuale, in cui è stato di fatto preparato in diversi modi il terreno poi all'ascesa dell'opzione leghista, sovranista e più dichiaratamente razzista. D'altronde ci ricordiamo tutti qual era stata l'ultima visita del ministro Salvini in questa città, era proprio a dicembre ed era proprio venuto qui a stringere la mano allo stesso sindaco Nardella, che provava in questi giorni a cavalcare l'onda di questa attivazione popolare antileghista, veniva proprio a stringergli le mani e ad accordarsi su nuovi sgomberi e soprattutto sulla costruzione di un nuovo centro per rimpatri. Questo è giusto a ricordarlo come fotografia che per noi continua a essere emblematica di una contiguità che c'è tra le politiche del Partito Democratico e quelle della Lega, al di fuori di quelle poche settimane all'anno in cui la campagna elettorale prende il sopravvento. Ecco, abbiamo visto una piazza invece che non voleva e non poteva essere riassunta e utilizzata per le campagne elettorali di altri. Abbiamo visto una piazza giovane, abbiamo visto una piazza che ha saputo affermare con chiarezza, anche dagli slogan, dallo striscione che in maniera anche simpatica diceva dopo il Matteo di Rignano cacciamo il Matteo Padano, dai cartelli che hanno giustamente rinominato questo governo che si è tanto fregiato dell'appellativo di governo del cambiamento, l'hanno risoprannominato governo del cambia niente. Ecco perché crediamo che se da una parte questo governo, in particolare la spinta che la Lega ha dato a questo governo, abbia insistito su una direzione di peggioramento, di aggravamento di quello che oggi sono le politiche del razzismo istituzionale, ma anche dell'attacco ai diritti delle donne, resta il fatto di un governo che non ha dato nessuna risposta ai problemi sociali di questo paese, che non ha invertito la rotta rispetto a un governo della crisi tutto schiacciato sulla tutela degli interessi di chi sta in alto, di chi possiede la ricchezza. E crediamo che sia anche emblematico il fatto che è stato anche citato poi in quella piazza del fatto che sono stati gli stessi terremotati che ci ricordiamo essere stati al centro della scorsa campagna elettorale, lì dove la propaganda leghista andava a contrapporre il diritto alla casa dei terremotati alla necessità, appunto, metteva insieme da una parte il diritto alla casa dei terremotati e la necessità di togliere diritti o supposti diritti, se ci ricordiamo tutti la propaganda dei 35 euro al giorno a migrante, quindi giocava in questo senso di guerra tra poveri quel problema, un problema che resta vivo, che si è rappresentato sotto i palazzi del potere romano proprio con la protesta dei terremotati pochi giorni fa, e che resta emblematico di un governo del cambia niente, di un governo che ha continuato a salvare banche, se pensiamo alla vicenda di Banca Carige, un governo che ha tanto parlato di reddito di cittadinanza fino a ridurlo a niente di più che l'ennesima elemosina, niente di più della solita misura di workfare più che di welfare, di controllo e anche, diciamo, di umiliazione della povertà, senza dare niente nella direzione di un'autonomia e di un reddito sganciato dalla precarietà e dallo sfruttamento a cui i giovani, ma non solo i giovani, oggi sono costretti. Ecco, e proprio i giovani abbiamo visto, anzi i giovanissimi soprattutto, quelli delle scuole superiori o quelli poco più grandi, li abbiamo visti nelle prime file, li abbiamo visti protagonisti di questa piazza, li abbiamo visti determinati a prendersi uno spazio di espressione, di parola, di contestazione, di rabbia all'interno di una campagna elettorale che invece resta tutta schiacciata su questa contrapposizione tra quella che è l'opzione sovranista, becera e leghista da una parte, e dall'altra questo fondamentalismo neoliberista del Partito Democratico. Ecco, se c'è qualcosa, qualche immagine che può dare un senso alla parola cambiamento, noi invece pensiamo proprio che siano le tante immagini che ci ha restituito la Piazza della Repubblica, e questo è il fatto per noi più importante da cui ripartire. Abbiamo visto tutti nelle ore successive, nella serata, il sindaco Nardella affrettarsi a dissociarsi da quello che si è espresso ieri sera in Piazza della Repubblica. A noi ci sembra più corretto dire che ieri sera in Piazza della Repubblica è stata la città a dissociarsi dal sindaco e a dissociarsi dal suo partito. Troppo facile, come sempre il giorno dopo, provare a ridurre quello che ieri è accaduto a un fenomeno di minoranza, agli soliti contestatori dei centri sociali. La realtà è che accanto alle esperienze dell'antagonismo che si sviluppano dalle scuole fino ai magazzini della logistica, attraversando le università e le periferie di questa città, si è visto un'eccedenza forte di partecipazione e di rabbia all'interno della piazza di ieri, ed è questo che probabilmente è il fatto più importante, è questo che ha definito una giornata importantissima, una giornata che dà coraggio alla nostra parte e che è capace di tornare a far paura all'altra parte.